Ad alta voce, Marco Foschi legge Gioventù senza Dio di Ødon von Horvath, traduzione di Bruno Maffi. Il processo Z e N. Trecento persone aspettavano davanti al palazzo di giustizia. Tutti volevano entrare, ma le porte erano chiuse. Poiché i biglietti d'invito erano stati distribuiti da settimane e il controllo era severissimo. Nei corridoi si poteva appena circolare. Tutti volevano vedere Z, soprattutto le donne. Eleganti e trasandate, erano tutte assetate di catastrofi, nelle quali non rischiavano di avere figli. Andavano a letto con le disgrazie altrui e si soddisfacevano con una pietà artificiale. La tribuna della stampa era al completo. Fra i testimoni convocati c'erano i genitori di N, la madre di Z, il sergente, il giovane R, che aveva diviso la tenda con Z e N, i due boscaioli, il giudice, i carabinieri, eccetera, e naturalmente io. E naturalmente Eva. Ma questa non era ancora nell'aula. Al momento opportuno l'avrebbero portata direttamente dalla prigione. Il pubblico ministero e l'avvocato difensore sfogliano i loro incartamenti. Eva aspetta sola in una cella. L'imputato entra, accompagnato da una guardia. Non è cambiato. È soltanto un po' più pallido. E batte gli occhi. Certo, la luce gli dà fastidio. La sua scriminatura è ancora perfetta. Siede al banco degli accusati come se sedesse sul banco di una scuola. Tutti gli occhi sono fissi su di lui. Egli getta intorno un breve sguardo circolare e vede la madre. La guarda fisso. Che cosa si agita in lui? In apparenza, nulla. La madre lo guarda appena, o è soltanto la mia impressione? La donna porta un velo fitto, nero su nero. Il sergente mi saluta, mi chiede se ho letto la sua intervista. Rispondo di sì e il fornaio ascolta con un'espressione d'odio la mia voce. Se potesse mi ucciderebbe con una pallottola di pane raffermo. La veletta. Il presidente del tribunale dei minorenni entra e tutti si alzano. Si siede, dichiara aperta la seduta. Sembra un buon nonnino. Leggono l'atto di accusa. Z è accusato di omicidio, premeditato per giunta. Il nonnino scuote la testa come se volesse dire: «Ah, questi ragazzi!» Poi si volge all'imputato. Z si alza. Declina le generalità senza il minimo imbarazzo. Finalmente potrà raccontare a cuore aperto la sua vita. Guarda con timidezza la madre e solo allora sembra confondersi. La sua infanzia non è stata diversa da quella di tutti i bambini. Incomincia poi a bassa voce. I suoi genitori non erano particolarmente severi, come del resto tutti i genitori. Suo padre era morto molto presto. È figlio unico. La madre porta agli occhi il fazzoletto, ma al di sopra del velo. Suo figlio parla di quello che voleva diventare. Sì, voleva diventare un grande inventore, ma di piccole cose pratiche, per esempio una nuova chiusura lampo. Ah, molto saggio, dice il presidente, ma se non avessi inventato nulla, avrei fatto l'aviatore, nell'aviazione civile, preferibilmente sulle linee transoceaniche. Per andare dai negri, penso mio malgrado. E mentre Z parla del suo passato futuro, il tempo incalza. Presto sarà qui, il giorno in cui apparve il buon Dio. Z parla della vita al campo, dei tiri, dell'alzabandiera, delle marce, del sergente, di me, e dice una frase strana. Le idee del professore mi sembravano spesso un po' infantili. Perché? Chiede stupito il presidente. Perché il professore ci parlava sempre del mondo come dovrebbe essere e mai come realmente è. Il presidente lo guarda stupefatto. Sente che il ragazzo sfiora una zona in cui domina sovrana la radio, in cui le aspirazioni morali sono dei ferri vecchi, mentre ci si prosterna davanti alla brutalità del reale. Sì, egli deve sentire tutto questo, perché cerca l'occasione buona per abbandonare la terra e di colpo domanda: «Credi in Dio?» «Sì», risponde meccanicamente Zeta. «Conosci il quinto comandamento?» «Sì». «Sei pentito di ciò che hai fatto?» Nella sala si fa un grande silenzio. «Sì», risponde Zeta. «Molto. Ma è un pentimento che suona falso». Il presidente si soffia il naso. L'interrogatorio prosegue. Si arriva al delitto. I particolari che tutti conoscono sono per l'ennesima volta rivangati. «Partimmo dal campo prestissimo», racconta per la centesima volta Zeta. «E ci dispiegammo in ordine sparso nel bosco, verso una linea di colline che si supponeva occupata dal nemico. Vicino alle grotte incontrai per caso N. Eravamo su una roccia, io ero furibondo contro di lui perché aveva forzato la mia cassetta. È vero che ha negato, ma...» «Alt!» interrompe il presidente. «Il professore ha dichiarato al giudice istruttore che tu gli avevi detto che N aveva confessato di aver forzato la cassetta. L'ho detto così per dire». «Perché?» «Per evitare che i sospetti cadessero su di me se la cosa si veniva a sapere». Continua. «Ci siamo dunque picchiati, io e N. E per poco non mi butta giù dalla roccia. Allora non ci ho visto più. Mi sono alzato in piedi e gli ho buttato una pietra». «Sulla roccia?» «No». «Dove allora?» «Non ricordo». E sorride. Non gli si può cavare più nulla. Non ricorda. «E da dove ricominciano i tuoi ricordi?» Rientrai al campo e scrissi nel diario che mi ero picchiato con N. «Sì, ma hai lasciato incompiuta l'ultima frase». «Perché il professore mi ha interrotto». «Che cosa voleva da te?» «Non lo so». «Bene, ce lo racconterà lui stesso». Sul tavolo suonò il diario, una matita, una bussola e una pietra. Il presidente chiede a Zeta se la riconosce. Risponde di sì con la testa. «E bussola e matita a chi appartengono?» «Non a me». «Al povero N», dice il presidente, e si immerge nei suoi scartafacci. «Ma no, solo la matita era di N. Perché non hai detto che la bussola è tua?» Zeta arrossisce. «Me n'ero dimenticato», si scusa a bassa voce. E qui si alza il difensore. «Signor presidente, forse la bussola non è davvero sua». «Che cosa intende dire?» «Intendo dire che quella fatale bussola, se non è di N, non è forse neppure di Zeta, ma di una terza persona. La prego di chiedere all'imputato se non c'era una terza persona quando il delitto avvenne». Si siede e Zeta gli lancia una breve occhiata ostile. «C'eravamo solo noi due», dice sicuro. L'avvocato difensore si alza di nuovo. «Come fa a ricordare così bene che non c'era una terza persona quando non riesce a ricordare dove, come, quando è stato commesso il delitto?» Ora il pubblico ministero interviene nel dialogo. «Si direbbe, avvocato, che la voglia sostenere che non è stato l'imputato, ma il grande sconosciuto a commettere il delitto». «Sì», aggiunge ironico, «il grande sconosciuto». «Non so», interrompe l'avvocato, «se si può definire grande sconosciuta una ragazza ladra che ha organizzato una piccola banda di masnadieri». «La ragazza non è colpevole», ribatte il pubblico ministero. «È stata interrogata Dio sa quante volte. Del resto, il giudice istruttore verrà lui stesso a testimoniare. A parte il fatto che l'imputato non solo si riconosce colpevole, ma ha confessato apertamente il fatto. Ma l'ha confessato in modo che, in una certa misura, parla a suo favore». L'ipotesi dell'avvocato difensore è dunque campata in aria. «Un momento», sorride l'avvocato, e volgendosi verso Zeta. «Non hai scritto nel tuo diario che lei prese una pietra e te la lanciò? E se ti avesse colpito non ci saresti più?» Zeta lo guarda tranquillo, poi fa un gesto di diniego. «Ho esagerato, era una piccolissima pietra». E irrigidendosi aggiunge: «La prego di non difendermi più, avvocato. Desidero essere punito per quel che ho fatto». «E tua madre?» gli grida l'avvocato. Non pensi dunque a tua madre, quanto soffre? Tu non sai quel che dici. Zeta china il capo. Poi guarda sua madre come se la interrogasse. Tutti gli occhi si volgono verso di lei, ma non riescono a vedere nulla sotto la veletta. Nella casa. Dopo le deposizioni dei testimoni, il presidente sospende l'udienza. È mezzogiorno. Lentamente la sala si svuota, l'imputato è portato fuori. Pubblico ministero e difesa si guardano, sicuri di vincere. Io vado a passeggiare nelle aiuole davanti al Palazzo di Giustizia. È una giornata grigia, umida e fredda. Le foglie cadono, sì, è proprio autunno. Svolto un angolo e mi fermo, ma riprendo subito a camminare. Sulla panca è seduta la madre di Zeta, immobile. È una signora di media statura, mi torna alla memoria. Involontariamente saluto, ma lei non risponde. Probabilmente non mi ha visto. Il tempo in cui non credevo più in Dio è passato. Oggi credo in Lui, ma non lo amo. Me lo vedo ancora davanti che parla al piccolo R e non lascia Zeta con gli occhi. Deve avere occhi furbi e penetranti. Freddi, molto freddi. No, non è buono. Perché lascia che la madre di Zeta se ne stia lì tutta sola? Che cosa ha fatto? È forse responsabile di quello che il figlio ha commesso? Perché condanna la madre mentre maledice il figlio? No, non è giusto. Ho voglia di fumare una sigaretta. Che stupido, le ho dimenticate a casa. Cerco un tabaccaio. Ne trovo uno in una via laterale. È un piccolo negozio tenuto da una vecchia coppia. Ce ne vuole prima che il vecchio apra la scatola e la vecchia ne conti 10. Si impacciano a vicenda, ma senza bisticciarsi. La vecchia mi dà meno di quello che mi deve e io glielo faccio osservare sorridendo. Trasale: Dio mi assista. E io penso: se Dio ti assiste, eccoti ben riparata davvero. Non ha spiccioli e va a cambiare dal macellaio. Io rimango col vecchio e accendo una sigaretta. Mi chiede se sono del tribunale, poiché quelli del tribunale vengono quasi tutti da lui, e si mette a parlare del processo. È un caso straordinariamente interessante, dice. Ci si riconosce la mano di Dio. Tendo l'orecchio. La mano di Dio? Sì, risponde. Tutti gli implicati nella faccenda sembrano colpevoli. I testimoni, il sergente, il professore, perfino i genitori. I genitori? Sì, poiché non soltanto la gioventù, ma neppure i genitori si preoccupano più di Dio. Agiscono come se non esistesse. Guardo fuori. La vecchia è uscita dalla macelleria e si dirige a destra dal fornaio. Ah, neanche il macellaio è riuscito a cambiare. Per la strada non c'è un'anima. D'un tratto un pensiero mi ossessiona. C'è un significato nel fatto che il macellaio non sia riuscito a cambiare. C'è un significato nel fatto che io debba aspettare. Guardo gli alti muri grigi delle case e dico: se soltanto si sapesse dove abita Dio. Abita dovunque e non è dimenticato, dice la voce del vecchio. Abita anche qui da noi, perché non bisticciamo mai. Trattengo il respiro. Che cos'è? È ancora la voce del vecchio? No, è un'altra voce. Chi mi parla? Non mi volto. E di nuovo odo la voce. Quando deporrai in tribunale e giurerai nel mio nome, non tacere che sei stato tu a forzare la cassetta. La cassetta? Oh no, se parlo sarò condannato per non aver denunciato il ladro. Devi essere condannato. Ma perderò il posto, il pane. Devi perderli, affinché non nasca una nuova ingiustizia. E i miei genitori non hanno che me. Devo ricordarti la tua infanzia? La mia infanzia. La mamma brontola, papà bestemmia. Passano le giornate a bisticciare. No, non abiti qui. Ci passi solo davanti e il tuo passaggio non porta alcuna gioia. Vorrei piangere. ma odo di nuovo la voce. Di, di che sei stato tu a forzare la cassetta. Fammi questo piacere e non offendermi più. La bussola. Il processo continua. Ci sono i testimoni, i boscaioli, i gendarmi, il giudice, istruttore, il sergente se la sono già sbrigata. Anche il fornaio e sua moglie hanno detto quello che sapevano. Nessuno sa nulla. Il fornaio non ha potuto fare a meno di ricordare la mia opinione sui negri. Si è scagliato con violenza contro la mia mentalità sospetta e il presidente l'ha guardato in tono di disapprovazione senza tuttavia osare interromperlo. È chiamata la madre di Zeta. Si alza, fa un passo avanti. Il presidente le spiega che può, se vuole, rifiutarsi di testimoniare, ma lei interrompe, sì che vuole. Parla, ma non solleva la veletta. Ha una voce sgradevole. Zeta è un ragazzo tranquillo ma collerico, spiega, e questo temperamento gli viene dal padre. Non è mai stato malato, se non delle solite innocue malattie dell'infanzia. Non ha nessuna malattia mentale da segnalare nella famiglia, né dal lato paterno né da quello materno. D'un tratto si interrompe e chiede: «Signor presidente, posso fare una domanda a mio figlio?» «Prego». Si avvicina alla tavola, prende la bussola e si volge all'imputato. «Da quando possiedi una bussola?» chiede sprezzante. «Eppure non ne hai mai avute. E prima che tu partissi per il campo abbiamo litigato perché tu dicevi: tutti ne hanno una escluso me e senza bussola mi perderò. Chi te l'ha data dunque?» Zeta la guarda fisso. Lei si volta trionfante verso il presidente. «La bussola non è sua. E il delitto l'ha commesso chi l'ha perduta», mormorio nella sala. Il presidente chiede a Zeta: «Hai sentito che cosa dice tua madre?» Zeta continua a guardarla fisso. «Sì», dice lentamente. «Mia madre ha mentito». L'avvocato difensore dà un balzo. «Chiedo una perizia psichiatrica sull'imputato». Il presidente risponde che la corte studierà la proposta. La madre guarda Zeta. «Mento, dici?» «Sì». «Non mento», urla lei d'improvviso. «Non ho mai mentito in vita mia, ma tu hai sempre mentito, sempre. Io dico la verità, nient'altro che la verità, mentre tu vuoi difendere quella sudicia ragazza, quella svergognata, quella sgualdrina». «Non è una sgualdrina, taci», grida la madre e diventa sempre più isterica. «Hai pensato sempre a quel genere di ragazze, mai alla tua povera madre, vale più di te». «Silenzio», grida il presidente indignato e condanna Zeta a 2 giorni di prigione per offesa a un testimonio. «Il modo come tratti tua madre è inaudito, ma spiega molte cose». Questa volta Zeta perde la calma. Il temperamento collerico, ereditato dal padre, ha ora il sopravvento. «Non è una madre», grida. «Mai si è occupata di me. Non si occupa che dei domestici. Da quando sono al mondo non faccio che sentire la sua voce odiosa che insulta il personale di cucina. Ha sempre preso le difese delle domestiche, signor presidente, esattamente come suo padre», dice lei con un piccolo riso secco. «Non ridere, mamma», le grida il figlio. «Ricordati Tecla». «Che Tecla?» «Aveva 15 anni e l'hai tormentata finché hai potuto. Fino alle 11 di sera doveva stirare e alzarsi il mattino alle 4:30 e da mangiare nulla, e un giorno è scappata. Ricordi? Sì, ha rubato per poter fuggire. Avevo 6 anni e ricordo benissimo che papà era incasato e ci ha detto che la povera ragazza era stata acciuffata e messa in una casa di correzione e la colpa era tua, solo tua, mia. Sì, anche papà l'ha detto. Papà ha detto molte cose, tuo padre. Papà non ha mai mentito. C'è stata allora fra di voi una scena orribile e papà non ha dormito a casa, ricordi? Ebbene, Eva è una povera ragazza, come Tecla, proprio come lei. No, mamma, non ti voglio più bene». Nella sala si fa un profondo silenzio. Poi il presidente dice: «Signora, la ringrazio». La cassetta. Ora tocca a me. Sono quasi le 5. Giuro davanti a Dio di dire la verità, nient'altro che la verità. Sì, nient'altro che la verità. Mentre giuro, la sala si agita. Che cosa c'è? Mi volto e vedo Eva. Si siede sul banco dei testimoni accompagnata da una guardia. Volevo vedere i suoi occhi, penso. Li guarderò appena avrò detto tutto. Per il momento non mi è possibile. Devo voltarle la schiena, poiché davanti a me c'è il crocifisso, suo figlio. Guardo Zeta, sorride. Anche lei sorride alle mie spalle. Rispondo alle domande del presidente. Sfiora anche lui l'argomento dei negri e sì, ci capiamo. Dico cose buone di N e anche di Zeta. Non ho assistito al delitto. Il presidente sta per concedarmi quando lo interrompo. C'è ancora un piccolo particolare, signor presidente. Prego. Non è stato N a forzare la cassetta contenente il diario di Zeta. Non è stato N? E chi allora? Sono stato io. Sono stato io a forzare la serratura con un fil di ferro. L'effetto di queste parole è notevole. Il presidente lascia cadere la matita, l'avvocato difensore balza in piedi, Zeta mi guarda, stupefatto. Sua madre getta un grido, il fornaio diventa bianco come la farina e si porta una mano al cuore. Ed Eva? Non lo so. Sento solo dentro di me una penosa inquietudine. Tutti mormorano. Il pubblico ministero si alza e punta il dito verso di me. «Lei?» chiede eccitatissimo. «Sì», rispondo. E mi stupisco della mia calma. Mi sento meravigliosamente leggero. Racconto tutto. Perché ho forzato la cassetta, perché non l'ho confessato subito a Zeta, un po' perché mi vergognavo, un po' per viltà, racconto tutto. Perché ho letto il diario e non ne ho tratto conseguenze legali. Volevo tirare una bella riga su un conto, sostituendovene un altro. Sì, ero uno sciocco. Noto che il pubblico ministero prende degli appunti, ma non mi turbo. Tutto. Devo dire tutto. Anche di Adamo ed Eva, e delle nuvole nere, e dell'uomo della luna. Quando ho finito, il pubblico ministero si alza. Faccio notare al teste che non deve farsi nessuna illusione sulle conseguenze della sua interessante deposizione. La Procura di Stato si riserva di intentare causa contro di lei per concorso in furto e per manovre atte a sviare la giustizia. Scusi, dico con un lieve inchino, ma ho giurato di dire tutta la verità. Ed ecco il fornaio urlare a mio figlio sulla coscienza. Sì, solo lui. Ha un attacco cardiaco e deve essere accompagnato fuori. Sua moglie alza un braccio, minacciosa. «Stia attento!» grida. «Stia attento alla giustizia di Dio!» «No, non ho più paura di Dio!» Sento intorno a me una generale disapprovazione. Solo due occhi mi guardano senza ripugnanza. Si posano su di me, calmi, come i laghi profondi delle foreste del mio paese. «Eva!» Sei già tu l'autunno. Marco Foschi ha letto Gioventù senza Dio di Eugen von Horvath, a cura di Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Regia di Riccardo Amorese. Per riascoltare il programma radio3.rai.it. Per scaricarlo raiplayradio.it. Ad alta voce è un programma Rai, Radio 3.